Buongiorno e bentrovati a tutti i radioascoltatori. Oggi siamo in compagnia di Simone Maganuco, paleontologo, è già stato nostro ospite in quanto è responsabile scientifico di dinosauri in carne ed ossa, il parco tematico a San Lazzaro a tema dinosauri. Bentrovato. Grazie, buongiorno a tutti. Il parco è rimasto aperto per tutto l'inverno, ma adesso andiamo in fronte la primavera e quindi oltre ai fiori sbocciano anche queste bellissime attività dove si può passare una giornata in famiglia o con gli amici per i più curiosi a tema dinosauri. Ricordiamo, il parco è rigorosamente scientifico, quindi è costruito con i dettami e i crismi che garantiscono che quello che si va a vedere sia poi effettivamente quello ritrovato negli studi e negli scavi in giro per il mondo. Come ogni anno voi proponete delle attività e dei laboratori. Ci vuoi raccontare qualcosa? Sì, allora ogni anno abbiamo come questo rilancio primaverile in cui ricominciano le attività grazie al bel tempo e le dividiamo in eventi che sono gratuiti per il pubblico e che permettono al pubblico di incontrare per esempio me, il paleontologo che risponde alle curiosità, oppure un artista che fa disegni su richiesta proprio per disegnare l'animale preistorico preferito dal pubblico. Oppure ci sono poi delle attività a pagamento, come per esempio lo scavo paleontologico o laboratori artistici. E questi eventi, queste attività sono concentrate al sabato, perché rispetto alla domenica è un giorno in cui c'è un po' meno affluenza, quindi sono più gestibili. Però anche la domenica il parco poi è molto accogliente, molto ricco di iniziative, quindi è consigliabile a seconda delle disponibilità delle persone venire sabato o domenica, insomma lasciamo liberi loro di scegliere. Quali sono giorni orari di apertura e come si fa appunto a prenotarsi? Allora, da quest'anno non è più necessaria la prenotazione e i giorni sono sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 14 e dalle 14:30 alle 18, cioè questa piccola pausa di mezz'ora che è quella in cui dobbiamo andare da mangiare i dinosauri. Ah, ok, che sennò diventano aggressivi. Assolutamente. Oltre a queste attività, a questi eventi, il parco è comunque in continua crescita, perché se uno l'avesse visitato l'anno scorso e tornasse in questo periodo troverebbe delle ricostruzioni in più, tra cui per esempio il titano boa, che è un gigantesco serpente lungo circa 10 metri, o il sarcosuco, che era arrivato la scorsa estate, di lunghezza simile, che è un coccodrillo enorme, uno tra i più grandi coccodrilli mai esistiti. Ecco, noi ne approfittiamo, visto che abbiamo ancora qualche secondo, per chiederti una cosa che magari per te è scontata, ma per noi no. Cosa fa un paleontologo? Insomma, dove va il giorno? Il paleontologo, per parlare brevemente del lavoro, deve fare principalmente tre cose: cercare i resti fossili nei luoghi in giro per il mondo, a volte anche negli scantinati dei musei, perché possono essere anche reperti dimenticati dal tempo o da persone che avevano trovato in precedenza che poi non avevano capito subito cosa fossero, quindi alcune scoperte si fanno anche nei musei, però diciamo lì cerca questi reperti, li studia e poi li deve raccontare al pubblico, e lo può fare con una chiacchierata come quella che stiamo facendo o collaborando con gli artisti per dare vita a illustrazioni e a ricostruzioni come quelle che vedete nel parco dinosauri in carne e ossa. E la parte di ricerca ti ha portato lontano? La parte di ricerca mi ha portato un po' in tutto il mondo, ma principalmente nel nord dell'Africa, in Marocco, e anche in Sardegna. Stiamo scavando anche in Italia, c'è anche, non è proprio un vero scavo, sono più una raccolta di reperti in superficie che sono stati portati alla luce dall'erosione naturale, quindi dall'azione del vento e della pioggia, però sono reperti importanti perché anche questi ci aiutano a capire meglio la storia dell'Italia e dell'Europa ancora prima dei dinosauri, perché si tratta in questo caso di animali vissuti prima dei dinosauri, mentre in Marocco stiamo studiando dinosauri, tra cui lo spinosauro, che è una delle star del nostro parco qui a San Lazzaro. Ah, perfetto. Qual è il sito per saperne di più? Il sito per tutte le informazioni è www.dinosauricarneossa/sanlazzaro.